C'era una volta, e c'è ancora, un chapas ribelle, nascosto, ben in vista, potente come un silenzio, rumoroso come la pioggia sulla lamiera, persistente e resistente. Era il 17 novembre dell'83, quando da un nucleo guerrigliero classico di tipo guevarista nasceva l'EZLN, Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Era l'alba del 1 gennaio del 94, quando migliaia di indigeni, sotto il nome di EZLN, si alzarono in armi, dettando 13 rivendicazioni: lavoro, terra, casa, alimentazione, salute, educazione, indipendenza, libertà, democrazia, giustizia, pace, cultura e informazione. C'era una volta il caracol, la lumaca, era il 2003. Per i Maya caracol è un'espressione di un moto che avanza lento ma determinato, con andamento a spirale, permette di comprendere il mondo attraverso l'ascolto. Così avanzano gli zapatisti. Oggi ci sono circa 30 municipi autonomi ribelli zapatisti, disseminati per il Chiapas, divise in 5 grandi regioni, ognuna delle quali possiede una sede dell'autogoverno e un centro di riunione culturale e politica, i Caracol. Si dichiarano autonomi e ribelli e rispettano i 7 principi del buon governo, la forma dell'organizzazione sociale racchiusa nel mandare obbedicendo, comandare obbedendo, servire e non servirsi, rappresentare e non soppiantare, costruire e non distruggere, obbedire e non comandare, proporre e non imporre, convincere e non vincere, scendere e non salire. C'era una volta, e c'è ancora, una scuola senza voti, dove gli studenti apprendono e insegnano allo stesso tempo, dove l'educazione è concepita in maniera inclusiva, in differenti lingue, dove genitori, promotores e alunni partecipano collettivamente, attraverso le assemblee, alla costruzione dell'autonomia, elaborando programmi e tempi della formazione scolastica in armonia con cicli dell'agricoltura e della comunità. C'erano e ci sono le cliniche autonome, dove un medico, come promotore di salute, recupera saperi tradizionali e dove i farmaci sono l'ultimo rimedio per curare. C'erano e ci sono le cooperative autogestite, i campi collettivi, le assemblee di zona e corsi di formazione per migliorarsi, la solidarietà e il mutuo ascolto. C'è una guerra in Chiapas, che chiamano di bassa intensità, con l'esercito federale e i paramilitari che massacrano i contadini indigeni per ripulire il territorio dalle sacche di resistenza che impediscono l'insediamento delle imprese multinazionali. C'è una guerra in cui gli zapatisti sfidano questi attacchi continui, resistono e affermano, con semplicità e impegno costante, un'esistenza piena di dignità e un posto nella storia. C'era una volta l'altra campagna, era il 2006. Un percorso di insorgenza e resistenza che ha promosso l'agire collettivo di una politica anticapitalista, di una sinistra organizzata dal basso e lontana dai giochi elettorali, di una politica legata all'etica che rivendica l'esercizio pieno e quotidiano dei diritti, nel rispetto delle differenze politiche, sessuali e culturali. C'è ancora la Sexta, nata dal silenzio provocatorio di decine di migliaia di zapatisti e zapatiste che nel 21 dicembre del 2012 hanno occupato 5 capoluoghi ciapanechi. Oggi gli zapatisti aprono al mondo il loro cuore, le loro comunità e si fanno, Votan, cuore guida delle scuole da zapatista, con semplice e potente concretezza. Non si tratta di una causa solo ciapaneca e messicana, è un risveglio, una scossa, un appello all'urgenza di dire addio al capitalismo in un pianeta sull'orlo della catastrofe. C'era una volta e c'è ancora.